Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. L'Europa è bolsa, l'Italia è bolsa. È come se per riuscire a fare qualcosa servisse sempre una quantità di energia enorme, e anche quando la usi poi non funziona. La mia forza in Argentina è stata, e in America Latina in generale, è stata la mia più grande debolezza qua a Roma. È indubbio che non c'era spazio per me a Roma, o avrei dovuto aspettare ancora 6 o 7 anni per crearmi il mio spazio. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova immigrazione. Enrico ed Edoardo, giovani professionisti italiani immigrati nel sud-est asiatico e in Argentina, raccontano così, attraverso l'interessante progetto In the Meanwhile, i motivi che li hanno portati a lasciare l'Italia per puntare su paesi in via di sviluppo, motivi che li accomunano a centinaia di migliaia di giovani talenti emigrati negli ultimi anni dalla penisola. Oggi la frase della settimana è copyright del segretario generale dell'OCSE, Angel Gurria. La disoccupazione giovanile in Italia, tre volte superiore alla media, non è un numero, si tratta di sogni spezzati, perdita di fiducia, a volte di disperazione. Ma c'è anche chi dall'estero, dopo tanti anni oltre confine, prova in tutti i modi a rientrare, senza ricevere una sola risposta dal suo paese, come la protagonista della puntata di oggi. Continuano a ripetermi che non sono abbastanza brava. Nonostante tutto? Sicuramente sì, addirittura mi... Che devi fare ancora? Non lo so, veramente. Alessandra Riccardi, 32 anni, è Business Development Consultant per Royal Bank of Scotland, nel cuore della City londinese. Tra poco ascolteremo la sua storia. Prima però, in questo mese di luglio, dedicato alla ricapitolazione dei dati più significativi sui numeri della nuova emigrazione professionale dall'Italia, vi facciamo riascoltare un estratto dell'intervista di Giovani Talenti dedicata alla ricerca del Centro Altre Italie sulle nuove mobilità. Nuove mobilità o nuove migrazioni italiane? Questo è il titolo del questionario. La ricerca è stata condotta in partnership con Radio 24 e con la nostra trasmissione. Maddalena Tirabassi, direttrice del Centro Altre Italie, ci ha fornito in esclusiva i dati: età, grado di istruzione, paesi di emigrazione e motivi di espatrio in primo piano. Sentiamo. Dal campione che abbiamo finora, la maggioranza degli intervistati è abbastanza giovane, ha un'età compresa tra i 25 e i 37 anni, con una provenienza per il 67% dal nord Italia, per un 16% dal centro e un 17% dal sud. La maggioranza di loro risiede all'estero da meno di 4 anni e quindi rientrano proprio nella categoria della nuova emigrazione dei professionisti. Il 43% è single e solo il 24% ha dei figli. Soprattutto sono istruiti, hanno un alto grado di istruzione. Quello che colpisce è che l'istruzione sia veramente a un livello alto. La percentuale di laureati del campione rispetto a quella della media nazionale è doppia, è un 56%. Oltre il 13% ha un dottorato e l'8% un post-dottorato. Gli altri hanno un diploma, possiamo dire? Sì, i restanti hanno quasi tutti un diploma. Paesi di emigrazione, perché qui abbiamo Europa e Stati Uniti che ancora la fanno da padrone. Chi la fa davvero da padrone è l'Europa, con quasi il 70%. In testa si colloca la Germania, seguita da Gran Bretagna, Francia, poi Stati Uniti e Spagna. Ma anche la Cina, per esempio, figura all'ottavo posto, quindi è abbastanza alta in graduatoria. La cosa che emerge con maggiore forza dalla vostra ricerca sono i motivi dietro a questa emigrazione. Andiamo a vederli. Al primo posto possiamo collocare la ricerca di un lavoro, questo è fondamentale. Si tratta però di un lavoro qualificato, come dimostrano poi le percentuali dei lavoratori in un campo di dirigente o quadro, che sono il 18%. Abbiamo un 21% di docenti universitari, oltre il 14% è un ricercatore, sia in campo pubblico che privato. Comunque non sono solo ricercatori, ecco, questo è importante dire. No, assolutamente, perché i ricercatori sono 14%. Poi ci sono i motivi di studio, ma soprattutto c'è la ricerca di una migliore qualità di vita. Esatto, questo è un motivo forte. Quando abbiamo fatto la domanda perché siete partiti, le risposte sono un atto d'accusa verso l'Italia. Ne cito alcune, perché si tratta di un paese allo sfascio, senza prospettive, ingiusto, corrotto e senza senso civico, con cui non ci si può più identificare. E tornerebbero in questa Italia dall'estero? Le motivazioni per il ritorno in Italia, quello che colpisce è che sono quasi tutte legate alla famiglia. Solo il 18% tornerebbe in Italia. Un 40% è incerto, mentre